giorno di sorso, che qua nella mia stazione mi arrivava a 9:10 addirittura. No, non mi hai detto che vuoi l'impianto di leva, fatti vedere che ha un bidone, non mi arriva mi stai tubizi. Oh Bianco, lui, ci sentiamo dopo. A chi non si intende, sono un duccone. Io non ascolto, Luca. Da parte mia è tutto negativo. Chiama, chiama, Bobo, forte è chiaro qua. Un po' piccolino qua, anche da me, però già riesco a tirarlo fuori, dai. Siamo arrivati dopo Macchia Rosa, se tu lo sai dove locale. Tutto Roger qua, Bobo, tutto Roger, forte e chiaro, cava. Oh, sta una mattina portata comunque, buonasera, non metto da questa parte. Ah, è portata, non è vero. Ciao, Robè. Fai di quanto te, a momento ti copre, Luca. Adesso con disciplinata, vai da. Non è dove. Comunque buonasera a tutti, ho sentito Salvatore, Antonello, Pinangelo, l'amico di Sorso, che mi balbi al Paolo da Londra, però non lo so. E poi chi c'era Luca, non mi ricordo. C'è anche Pinangelo, Pomponio, Antonio, Antonello, Daniele ha fatto QRX. Avanti Pinangelo, Roberto. Ciao Roberto, ben sentito qua, contante, non è sento, e adesso ascolto un po' chiaro, a Luca. A tutti quanti. Sì, anche io ti ascolto bene, non ci sono mai no. Spiace, questo vi passa a tutti, tranne che a Luca vi passa a tutti. Anche a me sta passando. No, adesso in questo momento no, quando stava parlando Bobore, che non Bobore arriva a 9:15, l'ho passato. No, te l'accento. Ecco, dimmi una cosa. Robè, com'è che li ascolti? Guarda che c'ho il palmare tu, con una settantina di tratti e l'erbe. No, lo segnale è buono. Mi picchia 9:20, la radio 5. Va benissimo, diciamo, considerando che c'è un palmare sta uscendo alla grande, va benissimo. Diciamo ti ho sentito meglio. Va bene. No, ce l'accetto, però non ti fa un cazzo la portata. Ti ha provato, si sente una portatina, ma non ti toglie di voce. Me le usi vuol dire, vai Luca, riprendi. Ma anche qua passa, che sei più alta di te, la passi tu. Io a me sta dicendo. Oh, via. Ora sta rompendo le scarpe. Ma non ha neanche quel fatto. Allora non ci arrivo a Sassari. Se mettono le portanti non ci arrivo. Come mi ascolti Roberto, coordinate Giovanni Abbas e la mia. Qua sei 9:10, radio Super 5, la bomboletta sta andando. Tutto Roger, Roberto. E a chi c'era poi? Anche Antonio, avanti Antonio. Scappa. Ciao Roberto, sono appena entrato e ciao a tutti quanti. Ah, pensavo ci fosse la prima, ciao Antonio. Poi c'è l'amico da Sorso, non so se mi ascolta, attenzione amico di Sorso, avanti, Roberto da questa parte. Sì, senti all'otto, però la radio sei molto scalente, diciamo, bassino di radio, sì. E anche se mi bagliavo di Pierpaolo, non lo so, c'è la stessa modulazione di Pierpaolo. Mi prendi Luca. Ah, ti ho domandato se sei visto su Bruddu. Vai, avanti a Torre. Non ho capito cosa hai detto. Sì. Vediamo Pinangelo, girato lo senti l'amico da Sorso, arriva bassino qua di radio, per quello se riuscissi a salire un po' di modulazione. No, negativo, guarda, non ascolto Roberto, infatti non c'ho QRM ma non ascolto proprio. Sì, e gli altri amici di Alghero, Pilà, Cavallino, Carlo e compagnia, più sentiti? No, loro sono sul 15 di solito, e c'era Fondino Toccati sul 10. Perché io sto modulando sul 10, sul 5 e poi vado sui 45 metri sugli 88. E vabbè, non ti levanta troppo. tutti da questa la verità, quattro volte anche sui 20 metri. Sì, vabbè, aspetta un attimino, riprendi Bobo. Chi è questo che sta parlando basso basso? Chi è Mondino o Pilato? No, negativo, Mondino ce l'ha toccato, c'era. Come va questa radio? Questa radio mascula, cava. E la radio, così da microfono e busto. Turner più 3, K, Turner più 3, tutta a palla, K. No, no, non mi piace, è troppo forte il sedu. Pinar, a te come va questo Turner? Sì, è buona, però preferisco l'altra. Sei sicuro preferisci l'altra? Discreto segnale, però la radio in molti momenti non riesco a sentire quello che dice. Ho capito, mi ha detto, non mi senti, sì che ti sento, ma no, benissimo, tu a me come mi ascolti? Benissimo, ti sento bene. Boh, ma c'è il microfono da palmo, perché ti sento basso di radio, il segnale è buono, però la radio è molto bassa. Ok, non ho capito quello che hai detto. Vediamo un po', facciamo girare anche gli altri. Qui c'era anche Antonello, come si chiama? Pomponio. Via, avanti Antonello. Tu abbassa, sei troppo alto, stai saturando. Cambiami troppo, dai. Questo qua è un Turner più 3B, K. No, mi piace più con l'altro. Che è, avanti. Finanza lo sto, innescando sto. No. Questo è il... ci ho messo l'altro... quel microfono da base, no? Con l'equalizzatore. Ma quella regolazione l'avevamo fatto lui, eh? Affermativo, va bene o va male? Oh, diverso ti sei, vabbè, sono da un po' che non ti sto ascoltando, sembri un pochettino occupo, Pilar. Aspetta che metto qualche acuto. Allora, adesso sei andato meglio, dai, questa posizione, forse non eri troppo indirizzato verso il microfono. Roger al centro, no, è sempre quello l'impianto, le regolazioni sono sempre quelle. No, già va bene, non è, diciamo, non è male, dai, non posso dire niente. Vediamo un po', facciamo girare, chi tocca adesso? Antonio, vai tu. HK, piccolino lo sento, non riesco a sentirlo, comunque salutone, se non riesci a sentirmi, Robert, mandali saluti da parte mia. E appena l'hai sentito da Antonio? No, ascolta Antonio. Ascolta, guarda, ti ho messo un pochino di acuti. Non so se va meglio. Oh, non lo so, Pina, prova a abbassare, sembra che sia leggermente saturo. O abbassare appena appena l'intensità della regolazione del microfono, sembra un po' saturo, tipo strappato. Girare, questa qua è MB più 4, vai Robert. Ciao Bobone, ben sentito alle prossime, dai Pinaggio per Bobone. Ciao Bobo, già ci sentiamo, va bene, sta sovramodulato, comunque ecco più chiara è la voce, va bene. Sì, però Pina, non è la solita tua, sembra un pochettino strappata, non so cos'hai fatto, se le batterie dell'apparato se ne stanno scendendo, non lo so, perché sembra leggermente strappato. Probabilmente è quello, perché sto andando con l'idea e ci sono già una tre quarti d'ora, no? Probabilmente strappa un po'. Diciamo, ti ho sentito meglio le altre volte, la radio sempre 5, però non è ottima come ti ho sentito in altre situazioni, dai. Va bene lo stesso, comunque, non ti preoccupare. Ma allora, scusa, allora questo Turner non va, non serve a niente. Tu, se il Turner deve abbassare un bel, perché sei tutto saturo. Io già abbasso, è un minimo, eh. No, no, sembra che stai parlando dentro con un trombone, non con un microfono, che c'hai un imbuto sopra la bocca. Un imbuto. Oh. E sopra. Lo smita si muove a palla. Bene, avanti. Stai innescando pure. No, questo qua è l'MB più 4, meglio qua. Questa regolazione non so se ha cambiato il microfono un po' meglio, diciamo, rispetto a prima eri tutto, come che quando parli con un imbuto in bocca, la stessa cosa, adesso è un po' meglio. questo qua è l'MV più 4, Robert. Quello che usi sempre? Si conferma. Adesso non ti dico se il livello è troppo alto, ma mi sembra leggermente orecchio più alto del normale. Questo è normale, no, è un po' difettoso, domani te lo devo... Aspetta, lo voglio... un po' di sprite devo mettere a potenziometro. Non so, è a 5, Robert. Non è che... Non so, dimmi tu se non va bene. Aspetta un attimo. Aspetta, guarda se va bene. Ma io orecchio mi sembri troppo forte, Luca, però mi posso sbagliare, dai, dovrei accendere un'altra cosa per sentirti. Vabbè, se innesca, vabbè, l'altro baracchino acceso. Non lo so, Pina, a te come va? È sempre a quel livello, il solito livello, dai, 5. Vai, Pina. No, guarda, da me va bene, dai, io ti ascolto bene, però come preferenza, preferisco l'MB più 4. Sento che c'è la differenza, però sono buoni tutti e due, però... Personalmente piace più l'MB più 4. Questo è l'MB più 4, Pina. Difatti, dal timer, io preferisco il timer. Questa è un'ottima radio che c'hai. Il timer è buona, però non distruggi qua, ad ogni lontananza dal ghetto. Però preferisco l'MB più 4. Pina, però qua è il... si chiama Turner, no Timer, Turner, siamo in Mario Antonio, non di un musignà, Timer, si chiama Turner, questa è la cantante, Tina Turner, guarda se vuoi, questo qua è il Turner. Luca. Timer in italiano, in stanzarese si chiama un Timer. Ah, così è, non so abito lui, allora mi sto zitto, dimmi dov'è. Allora, sei troppo alto, adesso ti so guarda, ma un me, su, abbassa un me. No, grazie, solo così non si è sentito niente. No, sto uscendo. No, a poco più di uno, se non più non c'è più. Sei troppo alto lui, o abbassa il mic gain dell'apparato. Aspetta, vediamo un po'. Aspetta, no, abbassa il mic gain dell'apparato. Abbassa ancora un bel... Chiatta. Così alta, no, mi sta ascoltando, non sembra. Adesso è... Fate la metà, ma è chi guarda un po'. Abbassa ancora. Cazzo, roba. Aspetta un attimo. Ah, fa il culo. Aspetta. Devi fare l'ascolto, lui. Guarda adesso come va, io. 1, 2, 3, prova. Sempre alto, hai migliorato, ma sei sempre troppo alto. Roba, ce l'ho... aspetta, allora rimetto il più 4, aspetta. 2 è troppo alta di forza così. Ma sai cos'è, Rob? Molti acuti, è molto acuta la voce sua, non è grossa. No, ma non c'è tra acuta, io sto guardando qua l'indicatore di livello, lui è in saturazione, sta andando. No, adesso è... aspetta, adesso qua mi metto più 4, è un po' dittoso. Fanculuga, questa roba, adesso è a 4. Ma questo è il microfono che usi sempre? Questo qua è l'MB più 4, il solito microfono. Fai un passaggio lungo o normale, senza strillare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, provi, dici, prova, vai roba. Diciamo, così va bene come livello, non stai saturando. So, vediamo un po', pinaggiolo, a te com'è. Sì, già va bene, no, qua in lontananza va bene, non so QRM, ti ascolto bene, o Luca. Ok, avanti a tornare. Ehi, avanti, senti. Sei Pierpaolo. No, ok, Pierpaolo, a Torello, sì. A Torello, su. Bello, Io non mi grido, vabbè Pierpaolo, buh. Il suo cantoneo è il signor Traverito. Ehi. Che ti intendo, ma mi pare Pierpaolo, dai, Pierpaolo di Susso. Come chiamano Antonello? Ah, Gussi, andando a Susso ti chiamano Antonello, la casa ti chiamano Pierpaolo. Luca! Io non sapevo, già più di due mesi, per qua. Catta. Mi sa tanto andata a mangiare. Diciamo che Roberto non era convinto che eri tu. Vabbè. Da che tu mi sotto so, di te che la ridendi, che era per fa? Segnale Pierpa rispetto a normale. Ma non ti rovina molto, è 100 plus. Se scende un bel, come ti vai, ti muore una mano in bocca. Questo qua è piccolino, piccolino. Che la tagli su buono, cosa te ne vai se è piccolino? Usa quello normale, è il solito. Oggi per quello scaldare, ho attaccato. Vabbè, adesso cambio, va. Ehi, se no, vai, non ridi. Vediamo, fino ancora ci sei. Eglia, che cosa? Vabbè, trattando tu adesso, ha abbassato un po' il come si chiama? Il oh, qui è qua, adesso stiamo facendo pulito, benissimo, come eri tu sempre. No, cioè, ce l'avevo quasi al massimo, l'ho messo a metà. Comunque la voce è chiara, sì, tranquillo. Sì, sì, va benissimo, Pina. Potresti, per essere pignolo, appena abbassare. Ah, potrei abbassare? Abbassi poco, va benissimo, sì, perfetto. No, ce l'accetta, adesso do un'occhiata, vediamo un po'. Adesso l'ho messo a 3. Parla. 4, 5, 9, 6, 10, 12, 21, 41. Va benissimo, Pina, non tocca nulla, perfetto. Certo, qualcuno che sta chiamando sotto, alla testa lasciamo un attimo di bianco, avanti, chi vuole entrare? Non si sente nessuno, forse qualcuno, non lo so, vai, altro riprendi. Vai Luca. E beh, tutti deceduti, chi c'era poi? Avanti Pierpaolo. Riprendi tra l'altro Pierpaolo, cosa è bene Pierpaolo, Pina, cosa vuoi dire, chiamano? Tutti muti. No, ce l'accetta, ok. Qua stavo dicendo, e vabbè, adesso sono tornato alla normalità, no. Con l'impianto che sto descritto direttamente, l'equalizzatore, il regolato, il quel mic cinese, no? L'Embex. Allora sai cosa ho cambiato? Ho cambiato solo l'alimentazione, come alimentatore sono messo l'alimentatore no, fenomeno quello che c'avevo prima 8-10 ampere per il baracchino e invece con la segretaria sono messo solo esclusivamente la batteria, ecco perché non c'ho più quegli inmessi. Sì, con la batteria sei sicuro non ti fa niente, non ti fa niente, la cosa, l'unico problema è che col tempo poi se ne scendono e devi ricaricarla. No, negativo, sai cos'è? Io adesso ce l'ho attaccato il caricabatterie. Quello guarda, posso parlare quanto voglio perché non ci sono problemi, vabbè. Stai attento che non arrivino sovrattensioni, se no c'è il rischio che poi fa danno, vabbè dai, diciamo abbastanza. Dimmi un po', il K non lo stai più utilizzando, Pina? Non lo sto più utilizzando perché si è spezzato dell'antenna, della burro rovesciata. Mi è caduto, no? E non ho voglia di essere sul tetto a ritirarlo su con la carrucola. E non lo sto recuperando, ogni tanto lo accendo, va in ascolto su altre frequenze. A parte che ti hanno parlato sopra, chi è avanti? Me ne va adesso. Avanti sei tu, non sei, come te ne prima? Non so come Antonello, va. Avanti tu la dubbia Paolo, guarda se senti a cosa Pinangelo adesso. Pinangelo senti a cosa per Paolo. No, Pierpa non te trova, vieni avanti Pierpa. Hai sentito Antonella, mi sto cacchiando. Pierpa a Pinangelo l'hai sentito. Ti ha già entrato una Hai sentito coso, Pina? No, negativo, dici a Antonello andare a Platamon a prendere l'impianto e buttarlo al mare. Non è Antonello, ha fatto la buffonatura, è coso, Pierpaolo che voleva fare un su 5, ma non mi butti a me. Ah no, vabbè, dai, Pierpaolo. Quando ti dica io non ti ascolto, mi ascolta lui o Robè? No, no, no, dice ti ascolta solo quando è in movimento, in macchina, coso, a casa. È una situazione, diciamo, c'ha un'antennina, no, non possiamo pretendere, è messo in una posizione un po' scomoda per voi. Roger, vabbè, dai, no, con 5 watt, un antennino non può pretendere. Guarda, io non c'ho QRM oggi, dovrei ascoltare anche le mosche, figurati un po'. Come ti sto arrivando io? Che segnale mi stai dando? Aspetta che mi metto gli occhiali, Robè, un attimino. Però guarda che questo smitter è un po' avaro. Fa un passaggio. Allora, 1, 2, 3, prova radio. Santiago Robè, Super 5. Ah, va bene. Vediamo se Luca è rientrato. Ci sei, Luca? A me mi sente Pinangelo. Io lo sento piccolino, piccolino. Hai sentito l'Antonio Pina? Ha detto, lui ti sente piccolino, piccolino. Se lo senti tu. No, io non lo sento, solo che io sto sparando una settantina di vati e lui mi ascolta piccolo, ma io non lo sento. L'hai sentito, ha detto non ti sente, però lui sta sparando una settantina di installando. E poi tra l'altro c'è anche l'antenna grande. Io tocca accontentarmi di questa. No, è il più che sento, Valghero, qua a casa, io però, è cosa, Angelino. No vabbè, di Alghero li sento tutti quanti, a meno che non siano quelli per dire che usano l'antennino, ma poco li sento, anche se sono bassi. Gli altri Antonio, Pinangelo, Carlo, quelli arrivano tutti 9.10, 9.15. A K, sì sì. No vabbè, tu c'hai una posizione buonissima per Alghero anche. Sì, sicuramente per Alghero, forse la parte dove ricevo meglio, ma in altre zone no, ma ad Alghero arrivo e ricevo bene. Vediamo un pochettino, Pierpa, riprendi. Un attimo che sto facendo una cosa, ok? Ehi, vediamo che è rientrato Luca, ci sei Luca? Deceduto, Daniele, vediamo se è rientrato anche lui al campo base. Mi sto mandando sto pezzo delle Iene. Seduto a flusci comunque lui. Adesso no. Ehi. Vabbè. Sì, dimmi, ciao. Ciao, come mi ascolti? Benissimo, radio 5 buona e segnale 9.15. Ehi, questo è l'altro microfono nuovo che avevo preso. Ma la voce è perfetta. Che microfono è questo? Midland. Aspetta, fagli l'altro, guardi questo, prova l'altro, vedi che è migliore, va. Ehi, aspetta. Questo è quello nuovo che mi ho comprato, aspetta che cerco l'altro. È un microfono amplificato questo? No, no, normale. Addirittura, cavolo, stai andando alla grande allora. Guarda la differenza, guarda. Ascolta, è diverso. Già guardo pure, sto guardando anche gli strumenti qua, dai. Ma poi guarda che il microfono Midra, l'originale, va benissimo, Vanni. Sembra un preamplificato. No, ma è molto forte, per essere uno normale, va. È veramente buona come modulazione. Guarda questa è quello originale. Allora, questo di livello è un pochettino più basso, come qualità diciamo un po' meno di acuti c'è rispetto all'altro, ma è buono anche questo. Quindi quello là è il superiore o no? Boh, adesso in questo scusate, devi metterti sempre nelle stesse posizioni, non modificare niente, perché adesso questo ultimo passaggio che hai detto è migliore, quello là sembra più meglio adesso rispetto a prima. No, sono sempre nella stessa posizione. No, perché adesso gli acuti ce li hai, bella, come modulazione lineare, bella, non ti manca appena un po' di acuti ti manca. Il livello magari è un po' più basso, dell'altro spinge di più, però questa è una buona modulazione, non niente da dire. Vabbè, questo è l'originale, dai, diciamo, però anche quello là, lui mi ha detto che era l'originale, lo stesso, però non è un'edizione speciale. Lui, per me più forte è questo. Eia, andrà bene. E vabbè, provo con l'altro, ormai adesso mi ho comprato l'altro e proviamo a usarlo di più, però sì che si sciolga un po'. Prova l'altro, dai, questo secondo me come livello è più basso, riprova Mario, mi sbaglio Mario, rimettiti nelle stesse condizioni di prima. Guarda, mi senti? Allora, questo è perso un po' di acuti rispetto all'altro, prova a parlare normalmente. Ehi, questo è quello nuovo, come mi ascolti adesso? Sempre uguale a quello di poco fa o è peggio? Allora, di livello è leggermente più alto, però di tonalità sei leggermente carente di acuti rispetto all'altro. L'altro ne ha un pochettino di più, diciamo, questo va benissimo, niente da dire, ottima radio, però un peluzzino di meno di acuti c'ha questo, di medi acuti rispetto a quell'altro, ed è un po' più forte come livello. Eia, eia. Ok, vabbè, lo stavo solo provando per vedere un po'. Ciao, Pinangio, ascolti lì. Sì, che ti ascolto. Rita, a me piace questa modulazione, è più della prima, è buona come modulazione, Rita. Ehi, Pinà, segnale come ti arrivo lì, Pinà. Guarda te, Radio 5, segnale il coso, è Santiago 5 da me. Ehi, già va bene, dai. Roger, accetto, no, a me piace, Roberto, come modulazione, in lontananza, la sento buona. Ma invece al contrario la sentivo più con acuti, qua invece con questa radio la sento buona. Sì, no, l'ho detto anch'io, questa ha un po' meno di acuti però spinge un pochettino di più, l'altra ne ha un po' di più di acuti ma spinge di meno. Praticamente è molto più grosso di quello là, di quello originale, e poi c'ha questa griglia davanti tutta in ferro, è molto più pesante, molto molto. Non lo so. Avete vagheggiato in tre, non c'è capito niente, ti ho sentito appena appena Rita perché ti hanno quasi schiacciato. Sì, ti stavo dicendo che questo qua è un po' più grosso di quello normale, però e poi davanti ha una griglia in alluminio, là, si mette in alluminio, e dentro ha un coso in ferro molto pesante. Dai, gli hanno messo qualche rivestimento per renderlo meno, diciamo, più robusto, non lo so. Deve avere le capsule se sono diverse, perché magari l'esterno non conta niente, poi magari lo apri e c'è la stessa capsula. Comunque vanno bene, ottime tutti e due, niente da eccepire, dai, vanno benissimo, la voce è chiara, pulita, nitida, non ci sono disturbi, diciamo, di fruscio o cose del genere. No, il tipo mi ha detto che era superiore, poi lui l'avrà fatto per venderlo. Le prove si fanno sempre sentendo di più la tua voce, ascoltandoti, a quel punto dici se è più naturale o meno naturale, tutto quello che ti dicono gli altri tutti dimmi, io ti sto dando un parere personale, naturalmente poi cioè, se ti ascolti tu ti senti la tua voce, dici no, la mia voce è ghita, non quella che mi stai dicendo tu, e comunque da parte mia tutto ottimo, niente da dire, da cosa hai eccepita. Ehi, ok, ciao Bombolino. Sì, ciao Rita. Comunque da parte mia è tutto Roger stesso, Tutto Roger, ok. Troppo, no, va bene. E Pierpaolo, mi sente? Non lo so. Allora senti a Rita. Se non c'è. Sta facendo qualche cosettina. Ehi, Lugariello. E chi è? Mi sono andato in bene, poi nella televisione. Ehi, yeah. Non si abbassa la luce. Come? Quando parlo si abbassa la luce dello smitter. È metattore. No. Guarda, ho detto, lo vendono, prima costava 60 più 10, 70. Adesso lo sta lavando 50 più 10, 60. È un ultimo alimentatore. Proxel, 25 offerte. Ehi. Rita, ma ti stai aiutando tu? No, niente, nuda. A secco sono, solo con i barattini del bu. No, no, sta andando bene alla grande, niente da dire. Ehi, no, niente, io non ne ho, ce l'ha solo Stefano, però se la piazzando nel camion. Cappa. Riprenditela la Pina. No, ce l'ha, c'è. No, sta arrivando bene, con 5 watt arrivi bene a Rita qua. Qua stavo dicendo. Guarda, se c'hai problemi di alimentazione, comprati un carica batteria, un alimentatore, vedrai le telefoni. Voglio dire, una batteria, un carica batteria, te ne togli tutti i problemi come ho fatto io. No, già ce l'ho questo alimentatore, ma Sì, anche il caricabatterie dietro, però adesso lo sto alimentando con l'alimentatore, cioè adesso visto che si sta abbassando la luce. Occhio con i caricabatterie che non sono stabilizzati, stai attenta con Rita con quelle cose. No, perché se si scaricano potrebbero bruciare il barattino. No, che ti arrivano sovrattensioni, non è stabilizzata, nel senso se tu fai come Pinangelo, lo metti in coso, in serie con la batteria non ci sono problemi, però se mandi direttamente il caricabatterie alimentare un baracchino fai danno perché non è stabilizzata la corrente. Eia. E c'è il rischio che bruci tutto, fai danno, ti arriva qualche piccola sovrattensione, a parte residui alternata e cose del genere, lascia perdere. Perché non ce l'hai un alimentatore, Rita? Se collegato bene direttamente il caricabatterie non succede niente, infatti guarda, sono anni che il baracchino perlomeno, o baracchino o cosa lo faccio andare con le batterie, il caricabatterie, e mi è andata sempre bene, se per caso la batteria non riesce a caricare via accendo, si sente subito l'alternata, però danno non me l'ha mai fatto. No, con la batteria no, ma se lui prende un alimentatore, li collega un caricabatteria all'alimentatore, un problema già lo fa. Certo, alternata ti dà. Se per esempio no, adesso il caricabatterie, il mio mi pare che sia un 14 volt, se per caso non fa ben contatto la batteria, immediatamente mi avverte, perché anzi mi avvertite voi, perché mi dite, fino a guarda che stai andando con l'alternata, immediatamente stacco e controllo tutto. Quando te lo dicono, finché stai non sciogli tutto prima di dirtelo a qualcuno. No, ma già si sente, quando me lo portante no, se per caso io stacco la batteria e vado con... vado solo col caricabatterie, si sente il ronzio, quindi non mi è mai successo niente. Io dico sempre, bisogna stare attenti, in ogni caso, puoi avere il migliore alimentatore del mondo, però devi sempre stare attenti. No, Roger, accetto, ma lo sai così? Al massimo, siccome è originale questo caricabatterie, al massimo rimetto un condensatore elettrolitico, no? E io lo faccio andare direttamente, basta un condensatore. Sì, ma bisogna sempre avere occhi aperti, gli strumenti sott'occhio. Io qua c'ho quello alimentato da 30A con l'amperometro e volt, ma sono sempre sotto controllo, regolabile. Molte volte ti capita, per dire, come ti muovi, tocchi il regolatore di coso, di tensione. Una volta mi ha fatto uscire il tensore, è successo, e vedevo che non funzionava l'apparato, e c'era la tensione, era meno di 12. Meno di 12, però è un professionale, perché è protetto. E addirittura questo baracchino all'Elme, gli ho tirato 18 volte, mi sono accorto, però non ha fatto danno. E occhio, stai attento che sciogli i finali, perché li tiri li mandi troppa tensione e alla fine li sciogli, se stai troppo parlando, modulando. Vabbè, stiamo modulando, noi modulando, monopolizzando, facciamo riprendere anche Antonio, vediamo un po' Antonio, avanti. Che cazzo. Bisogna stare attenti con quelle cose. Io me ne accorgo subito quando c'è qualcosa che non va. Pierpaolo, sei rientrato? Niente. Luca, vai avanti. Guarda un attimo se cambia Stefano parlando con questo microfono, aspetta. Che ha pagato. E il mio bene ci sente, Roberto. Sì, no, niente da dire. Diciamo, non c'è il segnale fortissimo, perché quello un po' ti brucia a te il segnale, che non arrivi, diciamo, a bomboletta come possono arrivare Luca e quelli che spingono un po' di più. Però la radio è 5, niente da dire. Fai quanto è il segnale? Sei intorno al 9 qua. E caspita, qua per la distanza che c'è, io sono qua a Lima Delta e tu sei lì su, cioè è un ottimo risultato. Sì, considerando come stai uscendo, stai andando pure troppo forte. Guarda se metti un'antenna. Cerca, c'è la zona buona, Qua rende bene questa antenna, sono contento. Sì, niente da dire, già va bene. Magari per scendere un po' più giù verso Alghiere, quelle zone lì, devi cercare di trovare qualche sistemazione, magari un posto più in alto, non lo so. Alzare bisogna, però non è possibile. Già lo so, purtroppo c'hai dei problemi. Vediamo un po', Rita, mi ha detto Stefano sta entrando, avanti Stefano. Buonasera Roberto e tutti gli altri, Finangelo e Bombolo. Sì, ciao Stefano, mi hai sentito anche a te. Diciamo le stesse cose che ho detto a Rita, diciamo un pochettino chiusa come modulazione, un pochettino di acuti ti mancano, però già va bene, niente da dire. Io sono abituato al mio baracco. Chiappa, questo è quello che sta utilizzando, il nuovo che avete preso, Rita? Sì, questo qua è nuovo, sì. Non la spinge, niente da dire. Se vuoi provare così per curiosità l'altro, così vediamo le differenze. Adesso ti provo l'altro. Ma cosa hai detto, Robè, che l'alimenta con un caricabatterie, così è? No, Pinaggio ha detto che c'ha una batteria grossa, poi siccome lo tiene anche un po' spingendo, cioè lo spinge le sopra, diciamo, le sfrutta parecchio con le batterie dandogli potenza, però fa le scendere troppo, li mette in serie un coso, un caricabatteria in modo che stia sempre caricando, tipo come fa la macchina con l'alternatore quando la macchina è in moto. Diciamo da un certo punto di vista non è sbagliato, funziona. Di parte bisogna stare attenti a non fare qualche giochetto strano, ma lì non te ne accorgi, si stacca un cavo dalla batteria e ti arriva direttamente l'alternata all'apparato e c'è il rischio che lo bruci. E scappa, comunque quando si attaccano i caricabatterie è dall'alternata, mio. No, no, ma se c'è la batteria non succede niente, perché la batteria te lo livella, tu li stai soltanto, la stai caricando e basta. Il problema è se per sbaglio vari ti si interrompe un polo di alimentazione della batteria e mandi direttamente l'alimentazione dal caricabatteria, a quel punto c'è il rischio di far danno, oltre alle tensioni che non sono stabilizzate, ti possono arrivare dei residui di alternata e ti creano anche problemi agli apparati. Sono cose che bisogna stare attenti alla revisione, io soprattutto tutte queste cose qua, poi a dare uno sbalzo di tensione oioia, non fai danno. Vediamo Stefano, fammi sentire il nuovo del vecchio, diciamo. Oh, adesso mi senti meglio o peggio di prima, Guarda, un peluzzino, sembra un come la dita, appena appena un peluzzino più di acuti, ma a livello di orecchio quasi non si sente, però il livello è leggermente più basso questo. Vabbè, dai, la differenza c'è, dai, qualche pochettino cambia sempre da uno all'altro, dai. Però ti hai presente, qua stiamo parlando a cose proprio strumentali, a livello di orecchio neanche te ne accorgi, è una cosa molto impercettibile, dai. Vanno bene tutti e due, niente da dire, dai. Sembrano quasi uguali i microfoni, in parole povere. Ho capito, va bene, dai, continuate, bella che già vi stiamo ascoltando. Naturalmente se poi riesci a buscarti un microfono da tavolo le cose vanno anche molto meglio, perché lì puoi intervenire in altre cose. Vediamo un pochettino se c'è Luca di nuovo, avanti Luca. Niente, vai Pina. Roger, ciao Stefano. Allora, però io ti ascolto molto ma molto poco, in quanto non ti fai sentire mai. Pina, io la sera vado a letto presto perché sono stanco e di giorno sono in giro in camion e secondo che zona sono non mi posso sentire. E io Roger al 100, ma non sono mai cazzato, perché io su 5, io la mattina lo lascio acceso e guarda, io si può dire che ho sentito uno o due volte più che altro. Lo so, vabbè, ma io sul 5 non ci sto tanto, dipende da che giro devo fare, capito? Se sono alla zona fuori, magari dalle gallerie in poi, mi metto sul 5, se no sto col 10 a chiacchierare con Luca e con gli altri alla mattina. No, ce l'accetto, ho capito. Già va bene, ok. Chi è che c'è rimasto? Antonio non mi ascolta, d'accordo, Quindi Antonio non è assorso, Antonio è il figlio di Pierpaolo. Pierpaolo stava facendo lo spiritoso, nel senso stava cercando di ingannarci, ma non ci è riuscito. Pierpaolo è quello che diceva di essere Antonello da assorso, invece era la razza di con un baracchino, diciamo, da combattimento, da battaglia. E Antonio mi ha detto il figlio di Cozzo, di Pierpaolo. Sono tutti e due da Sassari, zona Laterocce. Sei guardato un poco. Ho già andato, mi piglio un bidone pure io. Già andate. E qua stavo dicendo. No, ma comunque non le ascoltavo lo stesso. E forse è per quello che mi sono preso il bidone. E a te tu diciamo lo sentivi, ma chi lo sentiva l'ha fottito, mia Daniele l'ha fottito. A me diciamo all'inizio ho detto mi balestrano, poi alla fine ho detto me ne sono accorto che non era lui. Però c'era il centro. Qua stavo dicendo, qua sta il 70. Eia. E già va bene, va bene. A me piace più l'altra, però questa va bene, va come razza. Già vanno bene tutti e due, già non mi lamento. C'è di meglio e c'è di peggio, dai, come dico sempre. Roger, accetta, cagliato. Rogerissimo, già va bene. E ci avrete, c'è Luca da. Ci sono. A pensare Roberto, cavolo. È stato un portatile, e secondo dove si metteva non è che non sentiva bene. Una volta che sei curato. E poi hai visto un mega impianto che mi ha fatto 3-0 a me. E vabbè, poi bisogna che mi mettete a me, 10-0 a me, diciamo c'è sempre qualcuno molto più importante e più grosso, diciamo, mi difendo, dai, non esageriamo, va. Antonio, ho parlato la prima volta con un portatile, poi più di 30 anni fa andavo con le radio ministeriali dei Vigili del Fuoco, poi mi sono messo in commercio e trattavo baracchini, e via, sono passato sulla 27. Diciamo, Pinaggio, hai provato di tutto, dai. Roger, al centro, quello lì è il mio lavoro. I baracchini a Ranghiero li ho portati, si può dire, li ho portati io ai pescatori e anche altra gente. C'era qualche baracchino, però erano a livello radioamatoriale. Ciao, però non hai mai tenuto una stazione base di quelle grosse, eh? No, la stazione base l'ho comprata 20 anni fa, però ho comprato la linea Kenwood, 140, però in coso, sugli 11-20 l'ho adoperata a poche mie. Vabbè, facciamo parlare anche Antonio Pierpaolo, perché sennò loro dicono, ci sentono a parlare e poi ci rimangono avanti Pierpaolo. Niente, vai Antonio. K. No, per carità, Robè. Anzi, io vi ascolto, non c'è problema. Vabbè, ma è brutto, dai, diciamo, tu vai che senti basso, sembra che siamo solo noi in frequenza. Tornando al discorso dell'altro giorno con Luca, quando uno non ascolta bene, è capitato anche a me altre volte, non è piacevole, diciamo, la situazione. Vediamo un pochettino se c'è qualche donato che vuole entrare sul 10. Attenzione, canale 10, che vuole entrare avanti. Sono Rita, dai, vi saluto, ciao Roberto, ciao Pinangelo e ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, dai, chiudo adesso, ciao. E ciao Rita, ben sentita anche a te, alle prossime, e anch'io adesso mi sa che stacco, dai, vi saluto di nuovo a tutti quanti, ciao Rita, di nuovo Antonio, Pinangelo, Luca, per Paolo se c'è, se mi ascolta, e tutti gli amici, dai, io entrerò un po', vedo qualcosa adesso, ciao a tutti, buonanotte da parte mia. Buonanotte a te Rita, a te Roberto, ce la sentiamo tutte le prossimine, dai, domani se coincide, ciao. E bevo una cassa di birra e poi mi chiederò, a te Luca. Avanti Luca. Ehi, ciao Roberto, ciao Rita, dai. Notte, e alla prossima, ok. Pacca. Pinale, dimmi una cassa di birra. Ehi, Fabino, una tazza di birra, dai, e da poi mi si copre, mi sto vedendo un po' di televisione, e da poi mi si copre. Va bene, tu la bevi sempre ghiacciata anche d'inverno, no? No, ma calda io non ne bevo, se la birra è calda, la lascio lì dove non ne bevo, io la bevo bella, fresca, ghiacciata, piano piano, no? E già andava di così. E vabbè, tu non la bevi nel senso, sei nel frigo, amico, così non ce la fai a bere, no? Ma te cazzo. No, la bevo, ma non mi piace, a me piace, bella ghiacciata, no, lasciala sul bicchiere, è bella piano piano assorsi, non tutta la ghiacciata. Ehi. Ci è abituato così, dai. Adesso guardi, non tocco birra io. Sono un bel po' di tempo. Guarda, molto probabilmente. Guarda, io ti ripeto, se io vado, per esempio, la volta scorsa sono stato a casa di Franco e c'era la birra dal freezer, ne ho assaggiato un bicchiere e non ho bevuto altro dal frigo. Se invece era ghiacciata due o tre bicchieri me l'avrei bevuto. Vabbè, perché non sei abituato a quella. Tu la bevi Heineken o Drera? Bionda Sardegna, è chiusa. È chiusa. Ma bevi anche la Drera? No, la bevevo prima. E hanno cambiato la Peroni e la Drera, addirittura hanno cambiato anche la Moretti. Ha già detto, sì, di via Arturo, non ne dico più, sto bevendo solo in chiusa, bella, bella fresca. Vabbè, si è abituato così, no, io la bevo così, fresca d'estate, fresca, non ghiacciata, no? Piano, piano, adesso non da un bene, non ne tocco fino, sono più di, non sarò, 5 mesi, 6 mesi non tocco birra. Io la bevo ghiacciata, però quando la appoggio sul bicchiere in pochi minuti diventa fresca, non ghiacciata, e quindi a quando mi bevo un bicchiere di birra, ma la bevo bella fresca, non ghiacciata logicamente. Se invece la tolgo normale dal frigo, a quando bella è calda e non mi piace più, ecco perché io preferisco ghiacciata. Quando hai bucato la impulla della pizza da un freezer. Cazzo, è ghiacciata, adesso me la vado a farla lavorare. Sì, piano piano, guarda, direttamente anche la mano te la scalda, amico. Il bicchiere te lo scalda e via dicendo. Se io, secondo che barbaro, ti dirà, ne bevo mezzo bicchiere e poi non bevo niente. Perché se non è bella fresca, io non le bevo, perché la birra calda, la birra normale, non serve a niente. La birra è buona quando è ghiacciata, perlomeno bella fresca, non ghiacciata. Ah no, io così no, fino a... Oh, manco neanche l'estate, fresca è buona, se è fresca va bene, se no è ghiacciata. Tu hai immaginato un po', oh Luca, che quando era coso, in campeggio, io facevo casa, in casa c'erano le casse della birra, le compravo 10 casse alla volta e mettevo quei pareti di coso, di ghiaccio, quei pareti dell'acqua, un freezer. Poi come andavo in campeggio mettevo la birra sopra, li mettevo il ghiaccio e rimaneva sempre ghiacciata. Tu immaginate un po', io un campeggio, in piena estate, no? Bene, la birra ghiacciata era un qualcosa di fenomenale. Sono tutti che la bevono così fino a... Capito? Sono tutti si abituati a berla così. A meno che invece di mettere... Se vai al circolo, no? Ti prendi il bicchiere grande, ti prendi il bicchiere piccolo. Se è bella fresca, non la scaldi subito. Infatti io sto bevendo sempre col bicchiere e dico, però se tu giri, itiri, una roba, e ritorni, la birra la bevono ghiacciata, però non ne bevono, fresca così, se sono tre persone, un bicchiere per uno e dal frigo se la bevono, però se uno dice, beh io voglio una birra, mi voglio bere piano piano in tempo di mezz'ora, no? Una birra e lì deve essere ghiacciata, se no acqua aperta è calda. Lo so, ma è dipende, non sono tutti che come te fino. Ne trovi, se ti posso dire, su 1000 ne trovi 10. Lo so, però calcola una cosa, che adesso io ho visto, no, anche fa tutto in estate. Molta gente, guarda, come appoggia al bar, a tavolino, come appoggia la birra, se non fai fretta aperta, la guarda, la lasciano direttamente perché non serve la birra tiepida o solo leggermente fresca. E guarda, in effetti no, la birra calda ti imbriaghezza, se sta ghiacciata non ti batti nulla. Cosa è vero? Fatti una mal di mazza. Ehi, non è per quello. Io perché a volte quando vado in qualche posto, anche in qualche casa, e fa fino a un con la birra, gli ho detto birra, se ce l'hai bella fresca, va bene. Se no non è bello, infatti molte volte la lascio. Ah, hai visto anche la station di Franco, eh? Buonasera a tutti, doppio rum. Doppio rum, ben sentito a Caim. Meno male che ti ho ascoltato, perché dalla macchina, guarda, senza la segretaria non ti sentivo. Oh. Ciao Gianni, l'hai sentito di nuovo. C'è anche Antonio comunque, vai già. Ciao Antonio, ciao a tutti gli amici là che sono in ascolto. Ciao Pila. Ma che adesso la segretaria, sono con 4 watt adesso. Ma sei a casa con la matta, fammi, scusami se li senti. E come ti sta arrivando con 4 watt? Aspetta un attimino che mi metto gli occhiali. La radio è buona. Prova che è Santiago. Guarda a vedere. Santiago 5, Radio 5, sì. È interessante sentirci, dai. No, ma così è tutta un'altra cosa. Infatti mi sembrava strano che non ti ascoltavo in macchina, perché qua, quando eri attrezzato ti ascoltavo da tutte le parti, anche da portatore. E già me lo ricordo. E vabbè, ma già va bene anche così, dai. Per parlare vicino va bene. Sono dovuto comprare il 747. Infatti io dal ghero esco sempre con una settantina, 50, 60, 70 bar. E col piccolo? Ehi, il 747, col piccolo e grande, quello già lo sai che non mi piace adoperare, quello lo adopero quando vado negli altri punti. Appagato. Vabbè Pina, ci esci bene lo stesso, non c'è problema. E beh, tu? E beh, già. Ci rimane mazzato, fino a lutto, ci travagliato. Scappa, infatti, ti ho sentito che un pochettino più tardi sei arrivato, Sì, un pochettino, mezz'ora dopo. E scappa, vabbè, pazienza. Vuol dire che domani te ne ritrovi di meno. Domani se ce ne di meno mezz'ora prima me ne vado. Che scappa, di solito se si lavora di più il venerdì, il domani te ne ritrovi di meno, credo che sia così. Insomma, tante volte ce ne c'è il venerdì che il sabato, la gribba. Che scappa, un bel residio. Sì, l'ultima l'ho fatta alle 7:30 a San Giovanni, una consegna di mobili. Due mobili, cioè veramente a San Quirico che li ho fatti. Dove a San Quirico? Andi a... E salendo dalla chiesa San Giovanni vai in fondo, poi trovi un incrocio, c'è scritto San Quirico, e vai verso sinistra. Sono scappato. E oggi trasporta un po' pesante, dai. E vabbè, ogni tanto, cioè, anche io oggi ho finito un pochettino più tardi perché sono uscita da Caba Sopra dalla Zindai, cioè da una parte all'altra, una in viale, verso Viale Italia e l'altra sopra in via Mastino. Sì, certo. Via Bastina è vicino al quadrato e Via Lettera è la parte opposta. Cazzo, è un casino quando è così. Beh, non si può programmare, purtroppo solo i clienti ci programmano e lavorano. KK Luca, ia, siamo qua. Ma ti stai guardando quel film, quello che fa ridere? Qual è il film che fa ridere? E di quella festa di quei ragazzi che hanno organizzato la festa e poi sono arrivati i genitori, hanno trovato apparecchiato, torta, e di tutti. Canale 5. Sgamattico. Ma sto guardando le Iene già. Cesaroni. Iene stai guardando. Per carità. E tu Pinangelo, Pinangelo, a chi voti quest'anno? Mamma mia. Il suo compagno di Gabbo. Il Caimano non lo voto. Rudy, guarda, Rudy l'hanno fatto pure. Manco io lo so che ha da votare, dico da un poco. So con solo no, che avrà tutta la votatura. E infatti tutti promettono adesso, poi li metti alla prova e non fanno un cavolo. Figurati, guarda, già, è tutto un casino, tutto un casino. Perché quello lì se l'è passato al centro, quell'altro è rimasto a sinistra. Cazzo, che tanto, ma sono finiti per il culo tutti gatti. L'unica cosa che c'è di sicuro che si dividono 300 milioni di euro, figurate un po', per il rimborso elettorale. E noi chi ha buttato dai dentro paesi? E ti porterà la confusione poi, perché dici tanto se voto al centro, sicuro lui se n'è andato al centro, dalla sinistra se è andato al centro, e cosa fai? Sono sempre le stesse persone. Ehi, è quella la fregatura, guarda, perché tu ti guardi un po', no? Fin quando c'è la cosa, c'è la Caimano, a suo governo non votavo. Poi no, per cacciare via il Caimano ho dovuto votare a sinistra. Figurate un po', io se ne è andato a sinistra, a destra, ma non si comprende più un tubo. E tanto sono tutti i gatti mangiatori. No, oh, sono tutti i gatti figlioli di chi hai compreso. Ecco di aro. La prima cosa che fanno, cazzo. Il tesoretto se lo stanno già cominciando a fare. Farsi conto un po' per uno, no? Ma perché guarda che mi sa, guarda che troveremo con questa politica più avanti, che vinca uno o l'altro, e tempi un po' bruttini. Ia, ma fa poco ci siamo dandi. No, manco male, guarda, c'ho ancora le divise. Le divise del poco, non ho consegnato niente. Forse divisa. Immagini Pilaggio in divisa, uscendo con la divisa. Luca, si è perso Luca, quanto ha? Sei dimmi già. Mi pare che me ne sono rimaste 4 o 5. Pilani. Senti a Pilaggio. No, non è piccolino, ma non riesco a tirarlo fuori. Anche lì le dice fare, no? E il cappello. Ehi, già va bene, dai. Io ho un'amica adesso che fa il vigile del fuoco. Guarda, è donna? Ehi, è l'unica sassa di che esce. No, se la accetta. Allora, guarda. Sì, già ne parto da di conoscerla. Però ci sono le altre. Le precarie. Ci sono le precarie, questa mi sembra che sia permanente, non voglio sbagliarmi, però le precarie ritirano 450 euro. Vero. No, questa qua ha fatto anche un corso, l'hanno promossa, mi hanno dato un altro diploma, si è presa la specializzazione, non lo so. Ogni tanto se ne prende uno, è molto, le piace molto, ha detto che l'ha sempre sognato da piccola a fare vigile del fuoco. E Roger, mi pare che è quella che ho conosciuto io, e mi pare una permanente, vigile permanente come a me, come ero io perlomeno. Solo che lei è donna, io sono un uomo, e qua stavo dicendo, no, quella ritira uno stipendio, è permanente, se ricordo bene era passata permanente, però le altre, io ho conosciuto delle ragazze, di 20-25 anni, qua del genere, che stanno facendo il precariato con la stessa divisa che c'avevo io. Gli ho chiesto, ma ascolta, quant'è che ritiri? Ha fatto 450 e 90, 950 euro e meno di me. Figura. È quello che non mi piace, hai capito? Che adesso se non cadeva il governo a queste qua, a queste ragazze, queste ragazze e ragazze, si passavano per maniche. Come intendi, G? Portate stanno mettendo qua. Ma mi passa, Gianni, mi passa la portata. Tutto sì. Roger, com'è che ti sto rifando lì a casa? 4, 5, 9 prove. 8 e mezzo, sì. E di radio bene ne fa? Di russo. Roger, guarda, sto andando con quei marchi cinese, con l'equalizzatore, no, sotto. Sempre quello che ho tu costruito tu, da. Ehi, infatti, prima c'avevo il palmare dell'Intec, adesso c'ho questo qua. Va bene, Scipia. Roger, avevo fatto delle prove, dice che come radio andava meglio del, come si chiama, del, dell'MC60. Insomma, cioè va bene comunque. Diciamo la MC60 è tutto un altro tipo di modulazione, ma va bene, Pina, è chiarissimo. Roger, al centro, infatti, qua le regolazioni me la fate fare Roberto, ti guardo un po'. Io mi fio, non mi ascolto, logicamente, perché in alto ascolto non mi metto. Comunque mi hanno detto tutti che va bene, e già va bene così. Ehi, c'è stato un break, va. Che ha breccato? Avanti, Luca. Luca, forse sta guardando quel programma lì. Avanti. Breccato. Prima breccano da Bruno lei. Ehi Pina, comunque siamo fine di male, la gente che stava discretamente sta diventando povera, non ce la fanno più con lo stipendio. Ah guarda, chi ha fatto, guarda, è stato il primo, il governo che c'era prima, e quello guarda ha messo in ginocchio a tutti quanti, adesso lo rivoltano i petitini. Ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. La gente deve imparare, deve rendersi conto che è un imprenditore e che è un lavoratore. Un lavoratore a un imprenditore non lo deve mai votare. Beh, pensa solo all'interesse degli imprenditori e della gente che è assurdi quello. Ma la volta scorsa più del 50% degli italiani, compresi i lavoratori, hanno votato e sono rimasti contenti. Una cosa ti dico, le criticate tutta la DC che governava male, poi ci sono stati 30 anni e questi casini qua non sono mai successi. Infatti, quando è successo una cosa del genere, ho già, e qua è successo. Altro che ti hanno messo, cazzo, di idoli invasi, no, italiani arricchitevi, Berlusconi, no, arricchitevi. Poi gli ha detto, italiani, vi mando la calcolatrice a casa. E tutti contenti. E dopo gli ha detto, ascolta, fatevi i conti, perché alla quarta settimana non arrivate più. Ah. Te lo ricordi? Per carità. Io ce l'ho ancora per fare la calcolatrice. A me non mi è arrivata, meno male, se no la chissavo, si guarda un poco. Ma lui, cazzo, italiani, arricchitemi. Ci sono arricchiti gli italiani, le banche, gli imprenditori, i commercianti, no? Ai lavoratori gli ha mandato la calcolatrice e gli ha detto, lavoratori, fatevi conti, perché adesso la quarta settimana non arrivate. E buonasera, non arrivi manca l'indomani. Chi mi sa che greppi a Bologna, cazzo, figurate un po'. Ma che ne esce, non esco messo di spruzzarsi da tutte le parti. Tu il mazzo è andato un po', ho abbassato le tasse adesso. A me dalla liquidazione me l'ha fottito 3.800.000 lire, in lire, mi. Fai tu. Sono bastardi. Sono solo saccucce e basta. Antoine. Cavolo, non è bigliato del golfo. Dimmi già. Vedete, di la tua. Cappa. So adesso che stanno in questo mese, anzi in questo mese che viene ci sono le votazioni. Vabbè. Faremo un omino che sta pisciando sulla fiamma dell'MSI per spegnere. Cappa, adesso vediamo un po'. Vediamo un po' cosa annesce Dorra. Però fatto sta che quelli là sono durati 5 anni e io ne manco un anno. Io so, ma uno vuole, un altro non serve. Berlusconi diminuiva un'altra se te lo metteva un anno. Io questo è tutto da vedere anche, ma vediamo un po'. Chi è che vuole entrare? Avanti. Tu prendi tu da. Beh, non rispondo. Babbola. Riprendi Pia. Non li sento gli altri, è caduto. Ma stavo dicendo, no. Sai cos'è? Berlusconi poteva, ha fatto, guarda, si ha fatto le leggi a persona. Si ha fatto i suoi interessi delle televisioni. E non me ne frega un tubo, guarda. Però la cosa più sporca che ha fatto, guarda, quando c'è stato il cambio lira-euro, doveva controllare i prezzi. Siccome non li conveniva controllare i prezzi, perché lui è imprenditore, allora ha detto, frutto le parole che ha detto, ma l'ha detto in faccia, arricchite gli italiani. I poveri lavoratori si sono illusi, no? Quando si sono visti 1.000 lire e un euro 1.000 lire, allora sì che se ne sono accorti, ma dopo 5 anni però. Via, è così, infatti, solo che non si è più a cavuta. Ma guarda, una cosa è certa, che io al Caimano non ho voto. L'ho fatto per tanti anni e so che qua sia un commerciante, che persona è un commerciante, e c'ha tutti i figli di commerciante, ti guarda un po', anzi proprio il commerciante no, il venditore, l'imprenditore, quindi sono ancora figlio. Mi pare che io devo dare il coso a un imprenditore, ma neanche scherzando, guarda. Ora sta a votare al centro. E allora, ecco a voi, al centro, il meno peggio. Perché il peggio, quello lì com'è, hai capito che adesso è stato, ha vinto la causa, Euro 7, e coso deve cedere, deve tagliare, deve indennizzare Rete 4, deve indennizzare 3 miliardi mi sono. 3 miliardi di euro e Berlusconi l'ha già detto chiaro e tondo che quelli lì cazzo sono spese che è coso che paga lo Stato. La carità, sempre noi siamo lo Stato. Ehi, però le televisioni sono le sue, sono, e Bello, io ho paura per quello, perché come entra, lui perché vuole entrare. Per saltarsi questo debito e basta, perché in Europa no. In Europa gli ho detto no, a cosa? A Euro 7 lo deve indennizzare perché Rete 4 gli ha fregato, non so per quanti anni, gli ha fregato il coso, la rete, no? Gli ha fatto perdere un sacco di soldi. E gli hanno messo il conto, sono 3 miliardi. 3 miliardi di euro lì, ci sono un bel di là. E lui l'ho sentito io alla televisione, no, quello lo paga il coso, lo Stato e basta. Non è che lo paga la Tinde, è sta cavana tutta lo Stato. Ma cosa c'entra lo Stato? Boh. Lo Stato c'entra, perché siamo noi, no, che gli diamo il voto a lui. Come va lo Stato? Si fa conflitto di interessi. Ecco che si paga i debiti. Lui perché vuole andare in cosa al governo? Mica per guadagnarsi, perché tutto quello è lo stipendio che si guadagna, mi pare che lo dia ai cosi in beneficenza. Modalità, in che mondo stiamo finendo? Ah no, in che mondo siamo finiti? Da 7 anni a questa parte, oh! Da 7 anni, perché guarda, fin quando c'era la lira, no? Tanto quanto c'era ancora il vecchio governo e si stava bene. Quando c'è stato il cambiamento lira euro, c'è stato anche il cambiamento sinistra destra. Ecco, guarda, dove siamo andati a finire. E anche Prodi, guarda, che ha messo a posto i conti dello Stato, adesso che ci doveva dare il tesoretto, il Vaticano ha fatto cadere il governo. E quindi tesoretto a noi così, lavoratori pensionati, col cazzo che ne vediamo. E chi travaglia come a tessere, gli stipendi dei milanesi, chi sarà le mani dei succiani? Ehi, ma scusa un attimino, quando è entrato ha detto no, le tasse le abbiamo sempre pagate, le paghiamo. Il bello che c'era la restituzione, no? Qui al Vaticano, il Vaticano li fa Mattella, vieni qua Mattella, domani fai cadere il governo. Domani fai cadere il governo, sì eccellenza, lui domani ha fatto cadere il governo. Chissà cosa tutto c'è dietro, noi ne sappiamo la metà, ma cosa tutto c'è dietro queste cose? No, senso, ce ne sono dietro le cose. C'è la casa, c'è la clinica del Vaticano, no? Ci sono le lobby via il cielo, i due balauri, no? Il travagliatore mi ha sempre in culo, figurate un po'. E poco ma sicuro. Ma una cosa che non sopporto, guarda, che molti giovani cantano è Forza Italia, hai capito? E meno che votano, cazzo, proprio a chi gliela mette in culo, quello che mi dà fastidio. E perché pensavano che essendo un imprenditore riusciva di più degli altri magari a governare, capito? No, ma non ti hanno tolto, perché Caimano riuscito a fare più degli altri, ha messo in giro che l'Italia, figurati un po'. è un buon parlatore, diciamo che ci sa fare parlando. Parlatore, la carità, guarda, io mi auguro, non tanto per me, perché in grosso modo questo è il terzo millennio, la gioventù del terzo millennio, lo schiavismo del terzo millennio. Io ne sono pure, perché te lo sai che... Cazzo, ma un giovane senza pensione, con uno stipendio da fame, via dicendo, quella è la schiavitù del terzo millennio. Se non si scenda e se canta Forza Italia, ui, sto cazzo dentro. Vero, anche niente, mi prendi scappa e mi chiamo sentendo a voi chiamo me la prendi la biocos. Sento grumido e scappa, quanta gente mi dice già? No, io sono sveglio ancora. il capo, però mi ha preso la sindrome. La sindrome da sonno. Caffa. No, ma non è, non fosse altro, magari se mi bonga fa la casa da goda, non è così. Però mi guardo il televisore. Però quando, quando sento la radio così, anche a volume basso, mi bigliato un momento, non capito il perché. Tu hai solo stanchezza e basta, non è sindrome di nuda. È la stanchezza che ti fa dormire così, kappa. Ma io ti dormo sempre tardi. Iaia. Penso che non so. Molte volte, giustamente a più di due, no, non vandomi a letto. Cioè, non mi si trovo. E anch'io mi ricordo all'una, l'ora e mezza. Non scappa, ma tu ti trovi prima. No, quando sono molto stanco, sì, se no no. Scappa, scappa. Questa sera sei stanco, no? Sì, distrutto, mi stanno lacrimando gli occhi anche. Fino a, più prima. No, ce l'accento, ho già. Io passo in quei rettini qua, Tomì. Adesso 5 minuti di televisione da voi metti Goku. Ciao, salutandoti, magari già ci sentiamo alle prossime. Salutami Antonio, non so se mi ascolta, io non l'ascolto. Già ci sentiamo alle prossime. Salutone circolare alle prossime, a te Gianni. Ehi, appena dai, buon corretti. Contraccambia i saluti, dai, Antonio. Avanti Antonio. Già fatto. No, anche se non ti sento, buon QRT, no, cioè non ti sento, ti sento piccolino, non so se tu senti me, ma te li manderà Gianni i saluti. Buon QRT, ce la risentiamo alle prossimine. Quante già. Io. Beh, vi auguro buonanotte anche io, dai. Ci sentiamo. Buonanotte, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte anche a tutti gli eventi di ascoltatori. Ma buonanotte già. Ci sentiamo domani, capo? Va bene, ciao, buonanotte. Adesso vado a fare nanna anche io. Sei appena entrato anni fa la nanna. Beh, io stavo ascoltando. Ciao, ciao. Ci sentiamo, buonanotte. Ciao già, ciao. Ciao a tutti. Ma qua è tutto bene? Ma guarda, me ne sono nati un 11 o 12, adesso non mi ricordo se c'è qualcuno che è rimasto sul fondo o a galla. E sta ricominciando da zero, dai. Di nuovo allora. No, diciamo che me ne erano rimasti 5 già. E poi una deve essere che era incinta e ha dato i suoi frutti. Ha fatto i figli. Ah. Ha fatto i figli. Via. E anche da me ne sono andato. Senza sarà fatto, senza niente. Così liberi, così rimangiano però. No, no, no, io sono già grandi. Sono già... guarda, saranno 2 centimetri di lunghezza adesso. Ai ai, non lo so, magari si hanno trovato qualche posto per nascondersi. Allora sai che pesci sono? Quelli che hanno la coda blu, tipo i combattenti, là. Però piccolini, come si chiamano? I neon. No, della grandezza dei neon quando sono grandi. No, i neon, ci sono i cardinali. No, quelli che non si mettono insieme ai combattenti sono si azzuffano, okay. Come cacchio si chiamano? E boh, faccio la pesca. Gli oppo, uppi, boh, non mi ricordo come si chiamano. I guppi. Ehi, a quelli lì. Non so che dire, quelli che hanno l'acqua dal ventaglio, quella staffola là. Quelli la fanno spesso la figliata, anche noi abbiamo figliati guppi. Che poi si chiamano, con un altro nome, si chiamano Limistis. Vabbè, quello lì è andata in porto la, la figliata, diciamo. Adesso vediamo se continuano a crescere, perché già sembra che stiano andando avanti. Sì, basta che vi fai il mangime più fino. Sì, già. E poi non gli ho messo più niente, né come si chiama quelle soluzioni per l'acqua. Biocondizionatore. Esatto. Non ne ho messo più. Tranquilla. Perfetto. E così. Vabbè, dai. No, ero al computer, stavo ascoltando e sono entrato a salutarti, dai. Io ti auguro buonanotte, allora ci sentiamo. Quando è che andiamo a farci un giro tutti in moto? Guarda, uno di queste sette, stavo dicendo, uno di questi mesi dovrei portarla, adesso se non è questo mese, è il prossimo, dovrei portarla a aggiustare. Però io la sto usando lo stesso. Infatti. Vabbè. Già capiterà già che le giornate ora si allungano e già ci incontreremo, eh. Appaga. Va bene, non c'è problema, siamo qua. Buonanotte a tutti, dai, se quello ci permette. Va bene già, dai, riprendo io e faccio salutone circolare a tutti quanti. Salutami la combriccola. Ciao, divertitevi. Ciao, ti buonanotte, avanti tu. Buonanotte già, buonanotte. Buonanotte anche a te, Tino Muscolo. Ascolti, ma dove stai modulando? Perché qua mi tocchi il rosso, E il rosso tu dove ce l'hai? Dove c'è il 30, quasi. Cioè mi stai toccando appena il rosso. Sono zona latte dolce, dai. Ah, ecco il perché. Tu sei Santiago 9 qua, Strano, perché io sono a Limadelta stesso. No, anzi, addirittura sei Santiago 8. Vabbè, non lo so, io sono forse un po' coperto perché sono un po' basso anche come direzione vostra, Ma è strano, eh. È molto strano. C'è questo testa di... Vabbè, lasciamo perdere che mi sta mettendo la portante, ma non credo che mi passi. Lui che è Santiago 3, fregatene. È un buffone. Ma tu cosa sei, dalla parte di su o dalla parte di giù? La siate dolce alta o dove? Bassa, verso Platanone. Cappa, ecco perché. Da dove è strano? Perché io da Mario Manzer arrivo a fondo scala, Sì, vabbè, Mario è più alto di me. Io quando ero a casa di mamma, diciamo che avevamo la stessa in linea, eravamo lì, dai, lì per lì. Mentre invece ora sono appena più basso. Non cappa, infatti, no, adesso è chiaro, no. Volevo sapere solo questa consultazione, perché cavolo, mi tocca sempre il rosso ogni volta che parla. Il 30 non ci arrivi a toccare il 30, però arrivi abbastanza forte qua, Vabbè, sono piccolino, va. Beh, forse sono toccato, va. Cappa, sì, no, già appena l'hai toccato, Aspetta, un po' fermo. Va bene, vai, lasciamo il mondo com'è. Cappa, no, se guarda, qua sei fortissimo, senza nessun problema. Vabbè, dai, ciao T, fatti sentire più spesso, ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, adesso faccio anch'io QRT, è questo che c'è la portante, si gioca con la PP. E allora, ci sentiamo, dai, ciao, buonanotte, QRT per me. Ciao, buonanotte, no, hai compreso quello che comprendono a te, se chi non andare al loco, no? So fa, solo con chi si gioca. non va nessun posto, ti capisco lo stesso, pure se sento il coso. Basta, vabbè, buonanotte. Ciao.